أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم أقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم e buonasera a tutti e a tutti, benvenuti, bentornati sulle frequenze di Radio Default. Va in onda ora Radio Cufia, la trasmissione di approfondimento su e di analisi sulla situazione palestinese a cura dell'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani. Questa è la prima trasmissione, non andremo in onda di lunedì, dovremo ancora trovare una data in cui fare una trasmissione sistematica. Oggi siamo qui con Khalil Shaheen, direttore dell'unità economica del Palestinian Center for Human Rights. Per i compagni e le compagne solidali con la Palestina, vi ricorderete che l'anno scorso ad Ariccio abbiamo avuto un incontro sempre con il Palestinian Center for Human Rights con Muhammad El Saim, un compagno del PCHR, ed oggi continuiamo il percorso avviato con loro. Marhaba Khalil. Masa el khair, buonasera per tutti. Allora Khalil, ci puoi raccontare, ci puoi dire cos'è il Palestinian Center for Human Rights e qual è il tuo ruolo come direttore dell'unità economica? Can you tell us what is the PCHR mission and your role as head of the economic unit of the PCHR? First of all, I would like to thank you for this interview. And regarding the Palestinian Center for Human Rights, what I can say that PCHR is an independent, non-governmental human rights organization in the Palestinian occupied territory, based the main office in the Gaza with another three branches. One is main location in Ramallah, the second in Jabalia refugee camp, and the third in Khan Yunis city in the south of the strip. PCHR mainly working on promoting human rights for all the Palestinian people, mainly to participate to achieve the fundamental rights of the Palestinian people to achieve their rights on self-determination and to promote and respect all human rights in all circumstances. The Palestinian Center for Human Rights is divided for different departments, mainly to promote civil and political rights and economic, social and cultural rights. Allora, innanzitutto ringrazio Radio Default per l'intervista e per il messaggio che lancia a favore del popolo palestinese. Il Palestinian Center for Human Rights è un'organizzazione non governativa presente nei territori palestinesi occupati e che ha base prevalentemente a Gaza. Le sue sedi principali sono a Ramallah, che è in West Bank, nel campo profughi di Jabalia, nella parte settentrionale della striscia di Gaza, e a Khan Yunis, una città nella parte meridionale della striscia. Il Palestinian Center for Human Rights ha il compito di promuovere i diritti umani per il popolo palestinese e lotta per affinché essi raggiungano i propri diritti, come ad esempio il diritto all'autodeterminazione, o comunque la promozione dei diritti umani in qualunque situazione. Il Markaz al-Falastini li huquq al-insan ya'mal ala awwalan tawthiq Palestinian Center for Human Rights is based on monitoring the human rights situation, mainly the Israeli massive violations to the international humanitarian law and international human rights law, and publishing different types of reports highlighting on the all violations by the Israeli occupation authority and its forces within the Israeli settlements. And we are working as part of our advocacy based on publishing and reporting all these types of reports on the human rights situation in the OPT to just find different tools to access to the international justice. Okay. Il compito del Palestinian Center for Human Rights è di monitorare la situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati e soprattutto le massicce violazioni da parte israeliana dei diritti umani, soprattutto soprattutto i crimini contro l'umanità, i crimini umanitari e appunto si basa sul diritto umanitario. Il Palestinian Center for Human Rights pubblica dei dossier sulle attività di colonizzazione a Gaza e sta cercando gli strumenti adatti affinché i palestinesi possano far valere in sede giudiziale internazionale i loro diritti. The Palestinian Center for Human Rights is delivering legal counseling and legal aid for the Palestinian victims, and working on the promotion of the human rights situation and to monitor all the violations even by the PA government or the government of Gaza, which related to Hamas. Allora, il Palestinian Center for Human Rights dà consulenza legale per le vittime palestinesi. Inoltre porta avanti delle azioni di monitoraggio di tutte le violazioni dei diritti umani, sia da parte del governo israeliano, ovviamente, ma anche da parte del governo dell'autorità palestinese che ha sede, che ha base in Ramallah, sia anche del governo di Gaza, che è legato ad Hamas. Come forse non tutti sanno, che nel 2006 vi fu una nel 2007 vi fu una grossa e lacerante divisione fra il popolo palestinese, che ha portato alla nascita di due diversi governi, uno a Gaza del governo eletto di Hamas e un'altra in West Bank diretto dall'autorità palestinese, divisione che dura tuttora. Yes, I said that there was the split between Hamas and Fatah. The Palestinian Center aims to build a transitional democratic society in Palestine, which needs more efforts to promote the situation of the human rights as affected seriously by the occupation authorities for ages. Il Palestinian Center for Human Rights punta a costruire un processo di transizione democratica nei territori palestinesi. Can you repeat after the transitional democratic period, please? As Palestinian people, we look for forward civil society with rule of law and a democratic society with full political participation for all Palestinians. E che la società civile palestinese vuole costruire una società democratica basata sullo Stato di diritto, sulla partecipazione politica attiva per tutti i palestinesi e per tutti i suoi cittadini. Next question. Ok, abbiamo capito insomma cos'è il Palestinian Center for Human Rights, questa importante ONG. Ora abbiamo visto che il suo compito è quello anche di monitorare le violazioni che Israele, le violazioni dei diritti umani che Israele commette sul popolo palestinese. Ora, Khalil viene da Gaza, dalla striscia di Gaza, che è stata vittima lo scorso novembre di un feroce attacco da parte dell'esercito israeliano, dell'aviazione israeliana, attacco che ha portato a un cessate il fuoco, che ha portato a delle concessioni da parte israeliana, come ad esempio la fine del divieto per i contadini di raggiungere le loro terre o il permesso ai pescatori di pescare nelle acque antistanti la costa di Gaza, e ovviamente di terminare gli attacchi omicidi. Ora, Khalil, dopo il cessate il fuoco, qual è la situazione a Gaza? After the you were victims of the I understood the question. Since the ceasefire which was achieved in Cairo between the resistance in the Gaza Strip and the Israelis under the umbrella of the United States and Egypt, we can evaluate the situation mainly on the human rights situation. It's more deterioration, in fact, as the impact and the figures are indicated that more than 105 Palestinians been injured by the Israeli attacks until this moment. Allora, dal cessato il fuoco che è stato raggiunto al Cairo dalla resistenza palestinese e da Israele, cessato il fuoco mediato dagli Stati Uniti e dall'Egitto, la situazione per i palestinesi è deteriorata ulteriormente. Infatti più di 105 palestinesi sono stati vittime degli attacchi israeliani. Kana min bayn ha'ula akthar min 45. There were 45 children among these injured people which been attacked by the Israeli guns and Israeli attacks adjacent the Gaza border with Israel. And on the other image, in the Gaza Sea, for example, Palestinian fishermen are suffering more and more because of the daily attacks. Since the ceasefire also, 45 fishermen been arrested by the Israeli Navy, and 8 boats were confiscated and transferred by Israeli Marines to Ashdod port in Israel, and more 7 boats been destroyed or damaged by the Israeli forces. Inoltre, circa una quarantina di bambini sono stati feriti dai cecchini israeliani nella zona di confine tra Israele e Gaza, che ricordiamo è una delle il tratto di terra col maggior numero di coltivazioni. Sul fronte marittimo i pescatori continuano ovviamente a navigare, ma continuano anche a subire attacchi quotidiani. Sono 45 e fino ad ora i pescatori arrestati, 8 barche sono state confiscate e portate al porto di Ashdod, che sarebbe la città immediatamente dopo la striscia di Gaza, mentre altre 7 sono state distrutte o comunque gravemente danneggiate dalla marina. This is the real impact on the security situation, but on the other side of the image, the illegal siege imposed in Gaza is denying 1.7 people from access to the West Bank and East Jerusalem. And this is the major sanctions based on the Palestinians between the West Bank and the Gaza Strip as a geographical unity, which is a systematic policy to destroy the entity of the Palestinians. Questo quindi è il vero impatto del cessate il fuoco. Inoltre c'è l'altro lato della medaglia, che è l'assedio illegale che viene imposto sulla popolazione della striscia, che è un assedio che impedisce a 1.700.000 di palestinesi di raggiungere Al-Quds, che è Gerusalemme, e la Cisgiordania, la West Bank. E questo va a minare l'integrità territoriale dei palestinesi. Questa è una politica sistematica da parte dell'entità sionista nel distruggere qualsiasi tipo di relazione tra le due parti di popolazione palestinese, e quindi gli impedisce un'effettiva unità. And at the same time, the Israeli occupation authorities are denying all Gazan products exports abroad, even to the West Bank markets. and that's affected the economical situation in the Gaza Strip, and the eco-social situation is more deteriorated. Unemployment is reached to 40%, and there are so thousands of youth graduates from the universities are unemployed now. Inoltre, le autorità di occupazione israeliana impediscono di esportare i prodotti di Gaza anche verso la West Bank. Impediscono le esportazioni in generale, ma anche quelle verso la West Bank, verso parte della Palestina. Ciò ovviamente ha causato un deterioramento della situazione socio-economica. Basti pensare, ad esempio, che circa il 40% della popolazione attiva di Gaza è disoccupata, e ciò colpisce anche e soprattutto i laureati. The Palestinians imports also is denying, and what the Israeli occupation authorities are allowed only 1/3 of the total daily need of the Gazan population. That's why the economic and social situation is deteriorated as well. As a result of that, 80% of the population of the Palestinians in the Gaza Strip are dependent to food aid. Poverty line is reached to 56% of the all population, and all the efforts to push the development or to reconstruction, all what was destroyed by the Israelis is totally stopped. Inoltre, oltre a negare le esportazioni, l'autorità d'occupazione israeliana impedisce anche le importazioni. Di fatto viene permesso da Israele di importare beni che coprono soltanto 1/3 delle necessità quotidiane dei palestinesi. Ciò cosa comporta? Comporta che l'80% degli abitanti della striscia sono dipendenti dagli aiuti esteri per quanto riguarda il cibo, quindi non iPhone o altro per quanto riguarda il cibo, mentre il 65% della popolazione della striscia vive al di sotto della linea di povertà. For example, during the last year in 2012 and even for the first quarter of 2013, the total exports of Gaza Strip was less than 2% of the annual export, as Gaza familiar to export agricultural products, mainly strawberry, flowers and vegetables to Europe countries and to Jordan and to the West Bank as well. Ad esempio, nel 2012 il totale delle esportazioni è circa il 2% di quello che era prima dell'assedio, soprattutto per quanto riguarda il campo delle fragole, che è uno dei maggiori prodotti d'esportazione che venivano esportati in Europa ma anche in West Bank, e che adesso non possono più uscire dalla striscia. For more than 4.5 years, Israel was denying access to construction materials. And since that time, Gaza was totally destroyed by the famous military offensive in Kastlid in 2008-2009. And then, on November 2012, they back another military operation, Pillar of Cloud, and the continued destruction and massive destruction against all the Palestinian properties. Inoltre, per più di un anno e mezzo le autorità di occupazione israeliane hanno impedito di far affluire a Gaza i materiali per la ricostruzione. Ci ricorda Khalil che nel novembre 2009 la striscia di Gaza è stata quasi rasa al suolo da quella che gli israeliani chiamano Operazione Piombo Fuso. E nel novembre 2012 un'ennesima operazione, l'operazione Pilastro di Difesa, un eufemismo per dire massacro, ha di nuovo portato distruzione sulla striscia di Gaza, distruggendo le proprietà private e pubbliche dei cittadini palestinesi. E ovviamente il blocco che ne fa i confini impedisce che i materiali di costruzione possano riportare la situazione, la striscia di Gaza, alla situazione precedente. And it looks shame on the international community, especially the high contracting parties to the international humanitarian law, mainly Geneva Conventions, who are just silent and keep silent on the ongoing Israeli policies which are forbidden according to the international humanitarian law. UN fact-finding mission mainly on the cast lead military offensive, they decided, Judge Goldstone was decided that a type of a collective punishment as the illegal siege is affecting all the economic, social, and cultural rights of the population. And he described that as crimes against humanity. Inoltre la comunità internazionale, cioè l'onta e la vergogna anche sulla comunità internazionale, gli stessi paesi che hanno firmato le convenzioni di Ginevra e le convenzioni sui diritti umani, che allo stesso tempo però rimangono in silenzio di fronte alle violazioni israeliane. La missione ONU diretta da Goldstein, che ha creato la commissione d'inchiesta che è stata fatta in seguito all'operazione Piombo Fuso, ha prodotto un documento in cui si diceva che l'operazione Piombo Fuso è stata una punizione collettiva, ma che anche l'assedio era una punizione collettiva che andava a incidere negativamente sugli assetti socio-economici di tutte le persone che vivono nella striscia. But until this moment no serious actions took place during the last period to ensure and to guarantee ending totally all forms of illegal siege imposed in Gaza, and also for these illegal sanctions based in the West Bank as more than 570 checkpoints, which restricting and very humiliated of the daily life of the Palestinians in the West Bank. E tra l'altro fino adesso non è stata intrapresa nessuna azione seria per terminare l'assedio di Gaza. Mi sono dimenticato prima di tradurre che la missione ONU aveva anche detto che l'assedio è illegale. Quindi nessuna azione è stata assunta dalla comunità internazionale, nessuna azione seria è stata assunta dalla comunità internazionale per terminare questo assedio. Né niente è stato fatto per la situazione della West Bank, dove ad esempio ci sono circa 570 checkpoints che impediscono ai palestinesi, alle palestinesi, negano ai palestinesi e alle palestinesi il loro diritto allo spostarsi e a portare avanti una vita normale. E quindi ora riposiamo le nostre voci, mandiamo, ci prendiamo una pausa e ci sentiamo Idem, gruppo gruppo di palestinesi che vivono in Israele, uno dei primi gruppi rap palestinesi, che ci cantano Mali Hurrie, Io non sono libero. عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وانما رب اشوف حدود سجن الانساني وانا بديش اموت هاجرن وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايدي مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مش لقى كمان مش زرع وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما بخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة محينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى الشوش العالم كلها ما بيقدر على الحرية Yeah. نتسحر معهم صرنا ولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المطلق هو نشطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة ولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمتنا وكل طلبنا كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما اروح بشوف حدود سجن الانساني ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما اروح بشوف حدود سجن الانساني ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية انا بتسعى عيش عروكة بيت وانا بديش اموت هاجرن وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيهديني حبل مش لقاه كمان مش ظلام وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما مخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رح نشوف حدود سجن الانساني ليه اطفال العالم حرة ولا مالي حرية وين ما رح نشوف حدود سجن الانساني ليه اطفال العالم حرة ولا مالي حرية وين ما رح نشوف حدود سجن الانساني ليه اطفال العالم حرة ولا مالي حرية نريد جيلا غاضبا نريد جيلا يصلح الآفاق وينتش التاريخ من جذوره وينتش الفكر من الأعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يغفر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق نريد جيلا رائدا عملاق بسم الله like the feeling. E scusateci per avervi mandato due volte la traccia, tanto era bella, ve la sentite due volte tranquillamente. E, siamo sempre qui su Radio Default, siamo sempre qui a Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento su, e di analisi sulla situazione dei territori palestinesi occupati. Ricordiamo per chi si fosse collegato ora che siamo qui oggi con Khalid Shaheen, direttore dell'unità economica del Palestinian Center for Human Rights di Gaza. Continuiamo la nostra chiacchierata chiedendo a Khalil della situazione dei prigionieri. La nostra radio è sempre stata in prima linea e ancora prima di nascere ha sempre fatto iniziative contro la repressione, che fossero esse nei castelli romani per chi manifesta contro la costruzione dell'inceneritore di Albano o possono essere i compagni arrestati dopo il 15 ottobre a Roma. O possono anche essere i resistenti palestinesi che si ritrovano nelle celle dell'entità sionista. Quindi, vista appunto il nostro coinvolgimento nella guerra totale contro la repressione e contro le carceri, chiediamo a Khalil qual è la situazione oggi dei prigionieri palestinesi. L'associazione Ad-Damir, che è un'associazione che dà consulenza legale ai prigionieri palestinesi, ha stimato per il 1 febbraio 2012 un totale di 4.812 prigionieri palestinesi, di cui 178 in detenzione amministrativa, 219 sono bambini, quindi al di sotto della maggiore età, ci sono 12 donne e 15 parlamentari. Alla fine del 2011, ne parlammo anche ad Ariccia con Mohammed, ci fu uno scambio di prigionieri tra il governo di Gaza che scambiò migliaia di prigionieri palestinesi con il soldato israeliano Gilad Shalit, soldato dell'occupazione catturato durante una missione di invasione di territori di Gaza. E oggi chiediamo a Khalil che effetto ha avuto quello scambio e qual è la situazione oggi dei prigionieri palestinesi. I'm asking the statistics of Adam. We're asking which were the effects of the Shalit swap on the situation of the prisoners and which is the condition of the Palestinian political prisoners in the Zionist jails. First of all, the Palestinian Center for Human Rights, as part of its advocacy based on the Palestinian political prisoners at the Israeli prisons, just recently organized an international conference for the Palestinian prisoners in Geneva last 2 weeks. And part of the participants were also prisoners' families and ex-prisoners and the association of the prisoners in Palestine. And that was part of more focusing and more advocacy for the international community and for the parliamentarians and for the governments to act more seriously on the case of the Palestinian prisoners. Now, il Palestinian Center for Human Rights sta dando un supporto anche legale ai prigionieri politici palestinesi e proprio su questo tema 2 settimane fa ha organizzato a Ginevra, che ricordiamo è la città dove sono state firmate varie convenzioni sul rispetto dei diritti umani, tutte bellamente ignorate, aggiungo io, ha organizzato una conferenza sul tema della prigionia politica in Palestina, conferenza a cui hanno partecipato sia familiari dei prigionieri sia ex prigionieri in seguito liberati. In sostanza è stato chiesto si è progettato di portare avanti un'azione di advocacy nei confronti degli organismi internazionali e dei contraenti della Convenzione di Ginevra per chiedere un'azione più efficace per risolvere la questione dei prigionieri politici in Palestina. The Palestinian prisoners whom started the hunger strike just to refuse all the Israeli humiliation and different types of upgrades of a human being, and they started their struggle challenging the occupying authority to guarantee their full respect of their main rights even in their prisons. I prigionieri palestinesi hanno iniziato uno sciopero della fame contro le continue umiliazioni, le vessazioni e gli abbrutimenti della condizione umana che devono subire. Loro chiedono con forza che vengano rispettati i loro diritti umani, anche in condizione di prigionia. And they had that there is also the humiliation on their families. Ci sono anche delle vessazioni che vengono portate avanti contro le famiglie dei prigionieri palestinesi. Yes, that's right. For example, almost more than 450 Palestinian political prisoners at the Israeli prisons from the Gaza Strip, for more than 4.5 years, all the families were denied access to visit their people at the Israeli prisoners. And at the same time, within the current situation, it's only selective visits, and even the families are humiliated by the Israeli soldiers while they are visiting their people, their brothers, daughters, and even their children at the prisons. And on the same time, I mean, the situation internationally is growing up to support the Palestinian prisoners' case. And it's a great and it's a golden opportunity within the situation to put a real end to the suffering of the Palestinian political prisoners at the Israeli prisons. Inoltre ricordava Khalil che più di 450 prigionieri politici provengono dalla striscia di Gaza e le loro famiglie, a causa dell'assedio che abbiamo visto prima, che non fa entrare i beni di prima necessità ma non fa nemmeno uscire le persone, a queste famiglie è impedito o impedita la possibilità di fargli visita. Questo... Oltre a questo, le famiglie dei prigionieri, le famiglie che vanno a trovare i loro prigionieri in carcere, le loro figlie, i loro fratelli, i loro bambini anche, devono subire delle vessazioni da parte dei soldati, come ad esempio delle perquisizioni corporali, umilianti e via dicendo. Però l'opinione pubblica internazionale è a favore della lotta dei prigionieri politici palestinesi e questa è un'opportunità preziosissima, questo supporto internazionale è un'opportunità preziosissima. D'altronde ricordiamo che anche a Roma, aggiungo io, c'è stato uno sciopero l'anno scorso, uno sciopero della fame in solidarietà con i prigionieri politici. Appunto, questo supporto internazionale è un'occasione importantissima per migliorare la situazione dei prigionieri politici palestinesi nelle carceri dell'occupazione israeliana. It's time now to end this so-called administrative detention as a form of prison for people who are not trialed and they totally denied access to their justice. And I think all international communities, especially the EU parliaments, should move and should act very strong way as condemning and convincing the Israeli occupation authorities to release immediately the political leaders of the Palestinian people like Marwan Barghouti and Ahmed Saadat and to immediate release of all the parliamentarians who are arrested by the Israeli occupation forces while they are elected by the Palestinian people. Inoltre aggiunge che bisogna bisogna fermare la detenzione amministrativa. L'amministrazione amministrativa nega ai prigionieri il diritto ad un processo, si basa unicamente su il sospetto di essere che il soggetto sia coinvolto in attività illegali. E quindi è una sorta di arresto preventivo che però può essere prorogato in maniera indefinita. E questa è una violazione dei diritti umani. Insomma, tutte le istituzioni internazionali, soprattutto ad esempio il Parlamento europeo, dovrebbe fare pressione sull'occupante israeliano affinché liberi i leader del popolo palestinese. Khalil ha fatto l'esempio di Marwan Barghouti, uno dei leader di Fatah, e Ahmad Sadat, uno dei leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Quindi devono essere liberati i leader palestinesi e devono anche essere liberati quei parlamentari palestinesi che sono stati arrestati, che ricordiamolo sono stati democraticamente eletti dal popolo palestinese. And I think it's a golden opportunity for the Palestinians themselves to take unification as serious step to support the Palestinian political prisoners' case. And it's time to unify all Palestinian efforts, whether they are from all factions, to achieve the unity and reconciliation. That's the main guarantee to achieve our fundamental rights, mainly to end our occupation and to achieve our rights on self-determination. I think this is time for Palestinian people everywhere in the Gaza Strip, in the West Bank, and global, in all the globe, to have a collective initiative to convince, to achieve the reconciliation and to establish a unity government. Inoltre è un'opportunità, è un'importante opportunità anche per i palestinesi per raggiungere l'occupazione. Quindi le fazioni palestinesi, tutte le fazioni palestinesi devono raggiungere l'unificazione per avviare dei percorsi di mobilitazione in appoggio, in sostegno dei loro prigionieri politici. Quindi devono... Khalil chiede di unire gli sforzi per raggiungere l'unificazione, per raggiungere il proprio diritto a liberarsi dall'occupazione israeliana e raggiungere il proprio diritto per ottenere il proprio diritto all'autodeterminazione. It's time for the Palestinians also to guarantee that they cancelled and they deleted forever out of their back this golden opportunity for our enemy who is occupying our land. È anche un modo per raggiungere una situazione in cui i palestinesi raggiungano il loro diritto di cacciare via il proprio occupante dalla propria terra. I hope by the next April that the Palestinians will declare their government and to have one government, one Palestinian government as a united government, not within two governments, one in Ramallah for the Palestinian Authority and the other one in Gaza for Hamas. So I think Palestinian people do believe in securing their stability on democratic society and respectful of human rights and the rule of law. And this is the time to do it. This is the time we have to do it. Inoltre spera che dal prossimo aprile ci sarà un unico governo palestinese, un governo palestinese dei palestinesi che non veda più due governi, uno basato a Ramallah e legato all'autorità palestinese e uno con base a Gaza che è legato ad Hamas. Spera quindi che appunto si raggiunga questa riconciliazione, spera che sia il momento affinché i palestinesi costruiscano la loro terra, che costruiscano una società in cui vengano rispettati i diritti umani e che portino avanti una resistenza contro l'occupazione. And I think the new status at the United States at the United Nations as an observer membership for Palestine is a very important step that we have to start our serious struggle to end the occupation. Aggiunge inoltre che il nuovo il riconoscimento da parte dell'ONU di membro osservatore per lo Stato di Palestina possa essere un nuovo passo affinché i palestinesi si riuniscano per combattere l'occupazione, per continuare la lotta. This for sure will help us to access, after ratifying especially all human rights treaties and the International Criminal Court, which we can account all the war criminals at the Israeli level, military or politically. Inoltre spera che, che il nuovo Stato di Palestina possa aderire ai trattati internazionali dei diritti umani e quindi avere accesso a quegli organismi come la Corte Criminale la Corte Penale Internazionale per mettere per portare a processo i criminali di guerra israeliani. I think Palestinian people were fully supported the Arab Spring and supported all Arab revolutions in the region, especially in Tunisia and Egypt, and they are fully still supported all these revolutions forward stability communities for all the region as part of building an Arabic democratic society. Inoltre il popolo palestinese ha sostenuto la primavera araba, le rivoluzioni arabe, soprattutto quelle in Tunisia e in Egitto, e spera che questo sia un passo per creare una maggior stabilità regionale e per costruire e per avere un supporto arabo alle rivendicazioni palestinesi. And it's time for back to the Arab cause, which we hope that chaos is going quickly and having a secure societies to enjoy and to respect human rights for Arab citizens in all the Arabic region as one step of full support for the Palestinian people to achieve their fundamental rights within the international cooperation and willful support of the European people and all people who are in solidarity with freedom and democracy. Inoltre spera che il mondo arabo possa raggiungere uno stato, una situazione in cui queste società siano sicure e democratiche e ciò porterà sicuramente a un avanzamento che li porterà ad aiutare maggiormente il popolo palestinese. Che aiutino il popolo palestinese a raggiungere anche i propri diritti. Questo insieme ai fratelli in Europa e nell'Occidente. This is the good time for us to end the impunity and to keep Israel above the international law, and it's time for ending the impunity and holding all these people of the Israelis who've been involved in war crimes against the Palestinians to be accounted. Insomma, è ora di è il tempo giusto, è il momento giusto per rendere Israele responsabile dei propri crimini. È ora che è il momento giusto per terminare l'impunità di cui gode in sede internazionale. Della sentence? It's time for ending impunity and to take all the war criminals of the Israelis for accountability. È il momento anche di far rendere responsabili, di portare a processo i criminali di guerra israeliani. Ok, quindi questo è ciò che abbiamo detto sui prigionieri. Ora un altro punto spinoso all'ordine del giorno della situazione politica palestinese, cioè l'unità e la riconciliazione. Nel 2006, dopo l'elezione democratica da parte dei palestinesi di un parlamento composto per la maggioranza da deputati del Movimento per il Cambiamento e la Riforma, che era che è l'organo politico di Hamas, abbiamo assistito a un boicottaggio internazionale della striscia del legittimo governo eletto dai palestinesi. governo, elezioni dichiarate democratiche anche dalla comunità internazionale. Nel 2007 vi è stata una scissione fratricida tra Hamas e Fatah, che ha portato di fatto alla divisione dei palestinesi in un governo che ha sede in West Bank e diretto da al-Fatah e un governo a Gaza diretto da Hamas. Nel maggio 2011 è stato raggiunto un accordo di unificazione che però non ha dato i suoi frutti. Nel frattempo si sono svolti altri incontri tra le parti mediati dall'Egitto per continuare la riconciliazione, ma sono stati prevalentemente slogan. Ad oggi, Khalil, qual è la situazione del processo di riunificazione e di riconciliazione e secondo te su cosa si dovrebbe basare questo processo? The history of the split, and there was the unification. My opinion regarding the unification. What do you think about the actual process of unification, and what do you think the reconciliation and the unification? Which basis must have this unification and reconciliation about for you? I think Palestinians were passed longer forward a real reconciliation, especially when they achieved throughout the dialogue in Cairo and Egypt between Fatah and Hamas, the main confronting parties, and the other Palestinian parties as well. And the good step that we welcomed as Palestinians was re-updating the registration file to prepare for a political elections in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem. We thought that was one of the main factors that as a precondition for a democratic elections to be within 6 months maximum after the formulation of the Palestinian unity government. Insomma, è ormai maturo il tempo per raggiungere la riunificazione, soprattutto dopo i colloqui del Cairo, che hanno visto in massima parte Hamas e Fatah, ma anche tutte le altre varie fazioni palestinesi, sulla riconciliazione, colloqui che sono stati visti positivamente dalla popolazione palestinese. Per Khalil ora è il momento di tenere delle elezioni democratiche, cioè non proprio ora, cioè è il momento di che vi siano delle elezioni democratiche per una nuova leadership palestinese, elezioni che riguardino i cittadini, che vedano partecipare non solo i cittadini di Gaza e della West Bank, ma anche i cittadini del settore orientale di Al-Quds, di Gerusalemme. E quindi per Khalil ci sono le basi affinché entro 6 mesi dall'annuncio di un governo di unificazione, di unità nazionale, si possano tenere queste libere democratiche elezioni. And the good achievement that more than 500,000 people, mainly in Gaza and the West Bank, 80% of them from Gaza Strip, were registered as a new voters for the coming elections, which will give the opportunity for a real change on the political environment or the Palestinian political regime. I think it's very important to proceed on, especially after the anniversary of the Palestinian Revolution in January, when more than 700,000 people, not all of them Fatah, but all the Palestinian people went to demonstrate and to celebrate the Palestinian revolution and the anniversary of Fatah, to send a very strong message to Hamas government that you are not alone here and we should unify and to have a full participation. For the Palestinian people, they already sent a very critical, strong message to both sides, Hamas government in Gaza and its leadership, and the PA in Ramallah and the president. It's now time to give and to respect the people's rights to express and to vote for the coming leaders. Insomma, Khalil fa notare che sicuramente un ottimo segnale di questa volontà di riunificazione è stato che molte persone, circa il 70% degli elettori di Gaza, ma anche moltissimi in West Bank, sono andati a registrarsi alle liste elettorali. E questo è stato un elemento molto importante che denota la volontà dei palestinesi di voler eleggere la propria leadership. È stato anche importante perché, altro fatto importante è stato che lo scorso gennaio, nell'anniversario della rivoluzione palestinese, cioè della fondazione del partito Al-Fatah, tantissime persone a Gaza, che è controllata dal rivale Hamas, tantissime persone sono scese in piazza per ricordare questo anniversario. E non tutti i partecipanti alla manifestazione erano di Al-Fatah, ma venivano anche e soprattutto da altre fazioni. E quindi questo è stato un messaggio che la gente ha mandato ai rispettivi governi da ambo le parti, dicendo che per il popolo è maturo il tempo della riunificazione. E soprattutto è ora di ridare ai cittadini e di rispettare il diritto dei cittadini a poter eleggere i propri leader. Poter eleggere e scegliere i propri leader. Ora, prima della fine dell'intervista, vi mandiamo, ci riposiamo un'altra volta il Gargarozzo e vi facciamo sentire una canzone, una coproduzione musicale anglo-palestino-irachena, sì, palestinese, inglese, irachena. Il rapper The Narcissist e Shadia Mansour cantano Alhamdulillah. Ringraziamo Dio. Bismillah, like the feeling when I miss Falah, then wish to God and clouds to lift us all. Alhamdulillah, I wonder if Bibi can ever see me, and if I go back to Basra, will it ever receive me? Bismillah, homies that have the time to talk, now I wish for stars that angels find a wharf. Alhamdulillah, I stand ordered the strength of my sister, kiss her and thank God, our mission is planned for. Bismillah, Mamati, Inti Hayati, Mom the best one, hold her close to heart like my left. Alhamdulillah, for the truth and the being is beaming as the moon queen, you bless my future to be with. Bismillah, for the soul's anguish, love, and the moment my brothers program these drums. Alhamdulillah, we put the truth to the test, proof that we bless students of this music at best. It goes. Way before militants try to split this law. Alhamdulillah, for every living day that we spent in the rays of the shams while we praise the condemned. Bismillah, wish I could take it back and lift the horn, make a track, erase the past that we missing. Alhamdulillah, he spoke so right, we listen wrong, living raw more than a living song. Give it Bismillah, all. So I don't rely on an image or man-made divisions for land, slave, prison, Alhamdulillah, fall. Excuse me if I use it loosely, forget to bow down and pray. How proud are they? Hope you hear the whispers. Thin ass, which stance should I sway? Betrayed by whispers. Alhamdulillah. Forever, hope this lasts, and we live class. Without a ball and a chain, the slave falling and claim. Bismillah, we're forever holding the peace. Wicked streets, crippled little beams, rippling through the Middle East. Alhamdulillah, may God bless the dead and gone. Forever strong, a better song, breaking bitter bonds. Alhamdulillah, for this world and this spot, to this song with these words for hip hop. Say alhamdulillah, stay humble and rhymes for eyes. Hate your hunger, it's like a jungle sometimes that makes you wonder. But what is hell? Who knows and who has the answers? مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟ My soul is something that I will never sell. أنا روحي ما ببيعه أبداً. We are so serious. E vi abbiamo troncato So Serious, sempre di Shadia Mansour. D'altronde qua nessuno è un professionista della radio, quindi scusateci. E, siamo sempre su Radio Default, questa è sempre Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi sulla situazione dei territori palestinesi occupati, a cura dell'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani. E, siamo qui oggi con Khalil Shaheen, direttore dell'unità economica del Palestinian Center for Human Rights di Gaza. Abbiamo avuto una discussione molto, molto densa sulla situazione attuale, sui prigionieri e sulla riconciliazione. E ora andiamo a toccare un tasto anche italiano, se vogliamo. La morte dell'attivista internazionale dell'International Solidarity Movement, Vittorio Arrigoni, che abbiamo ricordato, di cui abbiamo ricordato la morte anche qua ai Castelli Romani il giorno della Naxa, il 5 giugno del 2011, con le testimonianze dal convoglio in cui anche noi di Castelli per la Palestina abbiamo fatto parte. Compagno italiano ma anche palestinese, che è stato l'unico a darci aggiornamenti diretti sul campo dell'offensiva Piombo Fuso, una grandissima fonte di informazione che ha saputo sbugiardare dalle righe del suo blog sia le menzogne che vengono quotidianamente ripetute da, dai nostri giornali mainstream, pensiamo al Corriere della Sera, la Repubblica, ma anche la Rai e via dicendo, sulle menzogne che facevano le veline dell'entità sionista, quindi dicendo che Gaza aveva attaccato Israele, che Israele stesse combattendo soltanto e uccidendo soltanto dei terroristi, che noi sappiamo benissimo non essere terroristi ma essere combattenti della libertà della propria terra. E proprio Vittorio ci ha dato, ci ha sbugiardato sul campo queste menzogne, raccontandoci dei bambini morti, del fosforo bianco lanciato sulle scuole dell'UNRWA, il massacro, insomma, che è stato piombo fuso, la punizione collettiva indiscriminata che Israele ha portato avanti contro il popolo palestinese. Ma oltre a quello ci ha anche aggiornato sulle condizioni di vita quotidiana della striscia di Gaza, quindi le storie dei pescatori e delle loro navi che venivano intercettate dalla marina, quei contadini nella buffer zone che non possono andare a coltivare i loro campi perché Israele ha deciso che non devono coltivare i propri campi per supposti motivi di sicurezza. Ricordiamo anche Vittorio che ha sbugiardato lo pseudo intellettuale Roberto Saviano, che raccontava la democraticità di Israele nelle sue bellissime, i suoi bellissimi soliloqui alle trasmissioni della lobby israeliana italiana. E proprio appunto Vittorio gli è andato a dire: non guardare solo le luci di Tel Aviv, vieni a vedere le luci di Gaza che devono essere spente a causa dei coprifuoghi imposti dall'occupante illegale sionista. Vittorio, ricordiamo, è stato ucciso il 15 aprile del 2011 da tre militanti salafiti che sono stati, alcuni sono morti nel blitz che le forze di sicurezza della striscia di Gaza hanno compiuto per liberarlo, altri sono stati posti sotto processo, ma diciamo che il processo è stato, potremmo dire, diciamo, c'è stata una scarsa collaborazione da parte delle autorità con le parti civili e con l'avvocato della famiglia di Vittorio. Oltretutto ricordiamo che ultimamente si è tenuta la sentenza d'appello per quel processo, sentenza di cui non sono stati avvisati gli avvocati delle parti, e che ha visto la riduzione della condanna, delle condanne ai colpevoli del suo omicidio. Ora la nostra radio, cioè noi, che almeno chi vi parla, è contro tutte le galere sempre e comunque, anche nel caso degli assassini di Vittorio. Sono state molto belle le parole della sorella di Vittorio, che diceva: non abbiamo, per me i processi hanno un solo valore, quello di portare a galla le verità. Non crede che dalla galera gli assassini di Vittorio possano, crede che la galera sia lo strumento per migliorare gli assassini di Vittorio, ma crede, spera solo che, appunto, è stata fatta, che il processo serva a definire una verità, e spera che dalle mani dei suoi assassini non sgorghino più fiumi di sangue, ma sgorghi della vita. Io mi associo a queste parole, e quindi non sono tanto critico per il fatto che siano state ridotte le condanne, perché ribadisco, le galere non devono esistere per nessuno. Ma parliamo invece con Khalil, che era amico di Vittorio, e il Palestinian Center for Human Rights si è costituito parte civile al suo processo. Cosa pensa del processo che, appunto, agli assassini di Vittorio? I said that it's not important that they lower. For me, it's not important that they lowered the years for his murderer, because we are against the jail. Yeah. And I agree with the Vittorio's sister's words that says that for her the trial is a way to know the truth, not to give 20 years or 15 years or 10 years. And she hopes that from the hands of the Vittorio's murderers will not flow blood, but only life. And I ask it because you were a friend of Vittorio, and the PCHR participated in the trial. What do you think about this trial? First of all, it's very hard to express what shameful that the Palestinians declared in different occasions that they felt after the murder of Vittorio Arrigoni as one of the most famous international solidarity activists with the Palestinian people. Vittorio Arrigoni was living as a Palestinian in the Gaza Strip, and he was so familiar and moved everywhere in the Gaza Strip, going to different families, living with them, and trying to support people for justice and peace. What was happened after the murder, that the Palestinian society sent a very strong message that all these criminals are out of the Palestinian people, and they condemned with all statements this shameful murder as touched the Palestinian themselves, and they considered Vittorio Arrigoni as a Palestinian martyr, similar with the American activist Rachel Khoury. Allora, innanzitutto dice che è difficile dimenticare ciò che ha significato la morte di Vittorio, ma anche fortunatamente è difficile dimenticare gli attestati di solidarietà che i palestinesi hanno mandato a Vittorio dopo la sua morte. Il popolo palestinese ha dichiarato che Vittorio, ciò che era per loro Vittorio, cioè uno dei più importanti attivisti internazionali in Palestina. Vittorio viveva come i palestinesi, da palestinese, e li sosteneva, li appoggiava, li difendeva e informava sulle loro vite. Soprattutto il popolo palestinese ha mandato dei messaggi molto forti dopo la sua morte, dicendo che quello era un crimine contro i palestinesi, e che consideravano Vittorio un martire del popolo palestinese, esattamente come l'attivista statunitense Rachel Khoury, che ricordiamo è morta nel 2003 schiacciata dalle ruspe degli occupanti israeliani mentre tentava di impedire le demolizioni delle case a Rafah, nel sud della striscia. Nel 2004, scusate. The Palestinian Center for Human Rights was welcomed the last session of the trial of the military court, which convinced the criminals for the first of them as life sentence and hard labor, and the third for 10 years and life and hard labor, and 1 year for the fourth for offering a shelter. And that was the final decision of the last session of the military court, which been in September 2012. But the Palestinian Center for Human Rights and human rights organizations in Gaza, as well as the Palestinian non-governmental network in the Gaza Strip. They were concerned on the updates regarding the reduction of the appeal court last month and to reduce the two criminals from life sentence to 15 years for each and to reduce another 5 years for the third defendant. And we argue the appealing court to declare the reasons and what's the updates regarding that. And we expressed our concerns mainly that despite all the circumstances regarding the official letter of Egidia Pireta, Vittorio's mom, for that Vittorio was one major who was defending death penalty. And as we gave the official letter to the military court during that time and to the Minister of Justice at the government of Gaza, we were concerned regarding this as not only an individual right, but it's a public right, and that should consider mainly on the seriousness of such crimes. And we are waiting for the appealing court to send us its reasons. Allora, il Palestinian Center for Human Rights, ma anche altre organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani, il network che si occupa di ONG che si occupa di diritti umani all'interno della striscia, si sono dichiarati d'accordo con le pene inflitte ai colpevoli dell'omicidio di Vic. Che sono, erano due ergastoli e altre pene minori, perché ad esempio uno di essi è stato condannato solo per, cioè solo, è stato condannato per aver, non in quanto effettivo assassino, ma per aver fornito l'abitazione in cui si sono svolti i fatti. Quindi erano d'accordo con l'ultima con la sentenza del Tribunale di Primo Grado che si è espressa nel settembre 2012. Mentre per quanto riguarda la sentenza del mese scorso del Tribunale di Appello, questo network di ONG si è dichiarato molto preoccupato per le riduzioni della pena. Soprattutto perché il punto fondamentale è che la Corte di Appello non ha pubblicato le motivazioni che chiariscono il perché siano state ridotte queste pene, e quindi loro chiedono che vengano pubblicate queste motivazioni e che si chiariscano anche le circostanze dell'omicidio di Vic. Loro ovviamente hanno salutato con favore la lettera che Gidia Beretta, cioè la mamma di Vittorio, ha inviato al Ministero della Giustizia di Gaza chiedendo che non venisse applicata la pena di morte. Questo qua è un procedimento legale che esiste nel codice palestinese. La pena di morte non può essere inflitta se la famiglia del condannato dichiara di non volerla, che non venga attuata. Però Khalil ci sottolinea che la serietà di questo omicidio, l'importanza di questo omicidio e quindi di sapere quali siano le cause e le motivazioni e le circostanze in cui è avvenuto, non sono un diritto personale, ma sono un diritto pubblico, è un diritto collettivo sapere queste cose. E quindi chiedono, rinnovano il loro appello alla Corte di Appello di Gaza affinché pubblichi queste sentenze. Pubblichi le motivazioni della sentenza. E quindi, insomma, è stato esauriente. Noi, la nostra trasmissione termina qui. Ringraziamo Khalil per essere stato con noi. Shukran Khalil. Thank you for you. And I will take this opportunity for sending regards to Egidia Peretta and Alessandra Arrigoni, Vic's sister, and we are continued and keep on going for fighting, for defending hopes, for achieving peace and love all over the world. Insomma, ringrazia a noi, ci ringrazia per l'occasione che gli abbiamo dato e dice che per lui questa è un'ennesima opportunità per lanciare un messaggio di solidarietà a Egidia Peretta, la mamma di Vic, e ad Alessandra, la sorella di Vittorio, e che lui continuerà a combattere per la speranza, per raggiungere i propri diritti, i suoi e del popolo palestinese, affinché nel mondo regni l'amore. Noi ci associamo al messaggio e vi diamo appuntamento per la prossima puntata, che ancora non sappiamo quale sarà, quando sarà. Sappiamo solo che siamo Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento ed analisi sulla situazione dei palestinesi occupati. Noi siamo le nostre attività in quanto gruppo di solidarietà col popolo palestinese, li trovate sul nostro blog castelliperlapalestina.noblogs.org. Insieme a numerose traduzioni di articoli internazionali e di aggiornamenti sulla situazione palestinese. Noi vi salutiamo con una seconda sigla. Abbiamo aperto con Una di Kum, Vi sto chiamando, canzone simbolo della lotta di liberazione palestinese, e vi lasciamo con Una di Kum, Vittorio Arrigoni, Una di Kum, cantata dal gruppo rap Dark Team, che abbiamo conosciuto a Gaza nel 2011 e che hanno dedicato la loro canzone a Vittorio. Un saluto a tutte e tutti e libertà a tutte e a tutti in Italia e in Palestina. بتعصى في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد تتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارضي تناديكم اناديكم اشدوا على مشيت على الايادي بالايادي بساعد ما حم الموت مطابق بالصوت ورافض السكوت وصاحب علم الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامه بغفله تمل قدر بلحظه خرجت دموع بلحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى اناديكم اشدوا على Thank you.